Capitolo 5. Questo mondo feriale. Se non occorre un'inversione improvvisa della fortuna per renderci cinici, non c'è forse nessun'altra esperienza che ci ponga faccia a faccia così velocemente e così strettamente con la realtà della vita. Le Lorimer, in verità, non avevano una buona ragione per lamentarsi e forse nel condannare i vari timoni di questo mondo dimenticarono che nonostante fossero giovani donne di valore, pure imbarcate in un'impresa di valore, non erano loro stesse nella posizione di giudicare i fondali ricolmi della mondana perfidia. Di certo, dopo un po' di tempo, fuoriuscirono dalla vecchia cerchia di persone con cui il rapporto era basato su una mera questione di scambi sociali, ma come osservò giustamente Phyllis, quando non hai tempo per fare brevi visite, quando non hai vestiti per coprirti, denaro per le carrozze e ne hai molto poco per gli omnibus, puoi difficilmente aspettarti che la tua carriera sia segnata da una successione ininterrotta di festeggiamenti. D'altro canto, molti dei loro amici si avvicinarono ancora di più nel momento del bisogno e un gran numero di gentili conoscenti furono lieti di essere clienti dello studio in Upper Baker Street e di raccomandare ad altri di recarvisi e fare altrettanto. Certamente questi ultimi pretendevano un buon trattamento per il loro denaro. Erano irrequieti quando posavano, si aspettavano la massima eccellenza nel lavoro e la puntualità della consegna e come la maggior parte dei clienti delle Lorimer, parevano pensare che il sesso dei fotografi desse ragione di una maggiore economicità delle fotografie. Una sera, verso la metà di ottobre, le ragazze si erano riunite per il pasto serale. Non poteva essere chiamato cena in senso stretto, nel piccolo soggiorno sopra la bottega. Erano tutte stanche, scoraggiate e facevano tanta fatica a mantenere quell'allegria che ritenevano come un punto d'onore da non abbandonare mai. Come si accorciano le sere? Osservò Fan, che sedeva vicino alla finestra, assorbita dal lavorio della fantasia. L'amministrazione della casa, opera di Fanny, a proposito, era stata messa a dura prova e giudicata carente, e la povera signora era stata con grande delicatezza relegata al vago dovere di creare un'atmosfera casalinga per le sue più ingegnose sorelle. Fortunatamente lei credeva nella necessità di una presenza interamente femminile tra loro, poiché nella sua mente la femminilità era rappresentata all'apparenza da un certo numero di fiocchi di nastro sulle tende, coprischienali sulle poltrone e tovagliette di tessuto ricamato su ogni pezzo del mobilio. Così accolse la situazione senza riserve. Sì, rispose Lucy piuttosto tristemente, avremo presto l'inverno a pieno regime, nebbie e tutto il resto. Era stata fino allo studio di un artista, a Sir John Wood, quella mattina per fotografare vari studi di drappeggi per un grande dipinto e i risultati al successivo esame nella camera oscura non erano stati soddisfacenti, perciò quell'insolito scoramento dello spirito. Per carità, Lucy, non parlare con quel tono, esclamò Phyllis che stava guardando dalla finestra. Cosa te ne importa dei drappeggi del signor Lawrence? Nessuno compra mai quei suoi dipinti scialbi. Non sei più la stessa da quando hai sviluppato quelle lastre oggi pomeriggio. Non capisci, Phyllis, è stato il signor Russell a presentarci a quell'uomo e inoltre, per quanto sia uno sconosciuto, se il lavoro fosse fatto bene, potrebbe lui stesso raccomandarci ad altri artisti. Accidenti! Vieni qui, Lucy. Vieni, vedi quella finestra illuminata di fronte a noi? È la finestra del signor Jermyn di Connie. Interessante. Connie ha detto che balla bene. Vorrei che venisse a ballare con noi qualche volta. Sono secoli che non ballo un buon valzer. Phyllis, dimentichi che sei in lutto! Esclamò Fanny sgomenta mentre si dirigeva al tavolo dove Lucy aveva acceso la lampada. Gertrude attraversò le porte a libro, portando un piatto coperto. Pure lei sembrava innegabilmente abbattuta. Gli affari erano stati, se possibile, più fiacchi del solito nell'ultima settimana. Valutate da ogni punto di vista, le loro possibilità non potevano essere considerate brillanti. A coronare il tutto, nel corso della giornata, zia Caroline aveva fatto loro visita. In quel frangente aveva posto alcune domande piuttosto dirette, ad esempio sulla condizione delle loro finanze, domande a cui era stato difficile sia rispondere che sottrarsi. Phyllis cessò il suo chiacchiericcio, che subito notò essere fuori luogo dato l'umore prevalente, e prese posto in silenzio al tavolo. Nello stesso istante, il campanello dello studio echeggiò con incredibile violenza per tutta la casa. Cosa possono volere a quest'ora della notte? Gridò Fanno un po' allarmata. Devono aver tirato il campanello sbagliato, disse Lucy, ma meglio che una di noi vada di sotto a vedere. Gertrude accese una candela e andò al piano di sotto, mentre le altre continuarono la cena piuttosto silenziosamente. In circa 5 minuti Gertrude riapparve con una faccia seria. Ebbene? Le domandavano tutte con la bocca e con gli occhi. Sono venuti a commissionarci un lavoro, disse lentamente, ma è un genere di lavoro davvero triste. Si tratta di fotografare una persona morta. Gerti, cosa intendi dire? Credo sia una cosa abbastanza normale. Una signora, Lady Watergate, è deceduta oggi, così il marito desidera che la salma venga fotografata domani mattina. Davvero singolare, disse Fanny. Perché dovrebbe scegliere delle signore, delle giovani donne per un tale tipo di lavoro? Ah, è solo un caso. Era la governante ed è capitato che la nostra fosse la prima bottega di fotografia davanti alla quale sia passata. Sembrava pensare che non gradisse l'incarico, ma non possiamo permetterci di rifiutare il lavoro. Ma Gertrude, esclamò Fan, sai di cosa è morta Lady Watergate? Forse scarlattina o vaiolo o qualcosa del genere? È morta di consunzione, disse Gertrude rapidamente. E mise il braccio intorno a Phyllis, che stava ascoltando con uno strano velo sui grandi occhi dilatati. Mi chiedo, aggiunse Lucy, se questa povera donna possa essere la moglie di quel Lord Watergate. Credo proprio che sia così. So che vive a Regent's Park e l'indirizzo per domani è Sussex Place. Un nome così conosciuto nel mondo scientifico e letterario era di certo familiare per le Lorimer. Avevano comunque pochi conoscenti tra le persone distinte e non si erano mai imbattute in un uomo colto e cortese di quella posizione sociale, nonostante la sua frequente presenza in certi ambienti della borghesia. La signora Marion, che dopo un po' aveva fatto un salto per una chiacchierata con il pretesto di discutere dell'insoddisfacente Matilda, venne informata del nuovo incarico. Ah, disse scuotendo la testa, è stata una triste storia quella dei Watergate. Così appassionatamente affezionato alla moglie come era stato, e poi venire trattato in quel modo da lei. Ma alla fine se la riprese e le perdono tutto, come il gentiluomo di buon cuore che era. E intendete dire, aggiunse fissando quei suoi occhi malinconici e furbi su di loro, che voi, signorine, siete attualmente intenzionate ad andare voi stesse in casa Watergate a fotografare la salma? Andrò io, nessun altro, rispose Gertrude con calma, passando sopra l'intenzione dichiarata di Phyllis di accompagnarla. Ha sempre in serbo qualche orribile racconto su tutti quelli di cui si parla, esclamò Lucy indignata, appena la signora Marion se ne fu andata. Non sarà mai soddisfatta finché non ci sarà qualcosa di altrettanto orribile da raccontare su di noi. Sì, sono sicura che ci considererà come tante prossime integrazioni alla sua Camera degli Orrori, disse Phyllis, riflettendo con un sorriso. E oh, aggiunse Fan, se soltanto non ci mettesse così perennemente a confronto con quel povero uomo che aveva lo studio lo scorso anno. Un atteggiamento simile la rende assolutamente sgradevole. Sciocchezze, disse Gertrude, è proprio un'appassionata degli eventi piacevoli come di quelli tristi. Descrivi i matrimoni, ad esempio, con tanto fervore quanto ne usa per i funerali. Certamente a tal riguardo faremo del nostro meglio per incrementare la sua scorta di racconti, esclamò Phyllis con un bizzarro scoppio di buon umore. Chi vota per sposarsi? Io sì, tu no? Fan? Deve essere un tale divertimento avere il tuo uomo preferito che viene a trovarti ogni sera. La mattina dopo di buon'ora, Gertrude Lorimer partì per il suo incarico. Andò sola. Senza dubbio Lucy doveva restare nello studio. Phyllis era a letto con l'emicrania e Fan stava provvedendo ai suoi innumerevoli bisogni. Mentre passava a carica della sua attrezzatura, Mademoiselle Stéphanie, la corpulenta francese giallognola che occupava il primo piano, entrò in casa e pronunciò con un largo sorriso vivace: «Bonjour! Una bella e luminosa mattina per il vostro lavoro, signorina!» esclamò il farmacista dal gradino della sua porta, mentre la moglie gli stava al fianco sorridendo in modo strano. Gertrude andò per la sua strada con un considerevole peso sul cuore. Non ebbe difficoltà a trovare Sussex Place, infatti lo aveva rimirato spesso. La bianca curva di case con le colonne, le cupole e lo spazio recintato del giardino che fronteggiava il parco. La casa di Lord Watergate era situata a metà della fila di case. Al suo arrivo Gertrude venne condotta in una spaziosa sala da pranzo, oscurata da tendine e ornata in ogni suo angolo buio da statue verdastre in stile pseudoclassico che rispondevano allo scopo di sorreggere delle lampade. Trascorse almeno un quarto d'ora prima della comparsa della governante, che l'accompagnò su per delle scale buie fino a una grande stanza al secondo piano. Qui le tende erano state sollevate e per un momento Gertrude fu così accecata da non rendersi conto molto chiaramente di ciò che la circondava. Mentre gli occhi si abituavano alla luce, percepì di trovarsi in un appartamento arredato squisitamente per la notte, le cui finestre aperte offrivano scorci di un'ininterrotta vista di boschi, prati e specchi d'acqua. Quasi al centro della stanza, ben entro la luce delle finestre, vi era un piccolo letto senza baldacchino in ottone battuto. Una donna giaceva in tutta apparenza addormentata su quel letto, mentre la luce del sole radioso di ottobre cadeva in pieno sul viso rivolto verso l'alto, sulla massa brillante e sparpagliata di capelli dorati. Una donna non più nella sua prima giovinezza, smunta per la malattia, sciupata per l'estremo inconsueto pallore, eppure bella, di una bellezza raffinata e stupefacente. Un'altra figura, quella di un uomo, era seduta alla finestra, in una posa ferma, immobile, come quella della stessa defunta. Gertrude, mentre in silenzio faceva i preparativi per il suo insolito compito, si asteneva istintivamente dal guardare in direzione della seconda figura ed ebbe soltanto l'impressione sfuggente di una testa china e scura e di un volto barbuto rivolto altrove. Fornì le poche direttive necessarie alla governante, con la voce più bassa possibile, quindi chiamando le sue capacità a una precisione meticolosa, si mise al lavoro con la macchina fotografica e le lastre. Era quasi sul punto di andarsene dopo aver raccolto l'apparecchiatura, quando l'uomo alla finestra si alzò all'improvviso e sembrò accorgersi per la prima volta della sua presenza. Per un breve, ma intenso istante, gli occhi di lei incontrarono lo sguardo di due disperati occhi grigi che da un volto esangue e scavato guardavano con una specie di incredulità stordita. La fronte larga, gli occhi sporgenti, i lineamenti belli ma marcati, i capelli castani e la barba, la figura alta, curva e vigorosa. Questi elementi insieme formarono un'immagine che si impresse come un lampo nella coscienza agitata di Gertrude e che era destinata a non dissolversi per molti giorni a seguire. «Sono fra i lavori migliori che tu abbia mai fatto, Gertie», esclamò Phyllis, sbirciando oltre le spalle della sorella. Le abitudini della giovane, per quel che ne sappiamo, erano simili a quelle dei gigli dei campi, ma sceglieva di fare irruzione nello studio quando non aveva niente di meglio da fare e nei momenti di gioia, tanto per occuparsi di alcuni dei lavori più piacevoli. Gertrude guardò pensierosa le stampe nella sua mano. Rappresentavano una donna che giaceva, senza vita o addormentata, con i capelli sparpagliati sul cuscino. «Sì», disse lentamente, «sono riuscite meglio del previsto. Certamente la luce non era la migliore che si potesse desiderare». «Povera anima», disse Phyllis, «che bei lineamenti! La signora Marion ci ha detto che era malvagia, non è vero? E non credo serva a qualcosa essere buona quando sei bella come quella donna». Capitolo 6. Alla salvezza. Signor Frederick Devonshire, mi rifiuto categoricamente di servire oltre un tale volgare egocentrismo. Avete avuto un ritratto da vetrina, un mezzo busto sfumato e una carte de visite. Siete stato raffigurato in una tempesta di neve a guardare dalla finestra mentre prendete il tè del pomeriggio e a fare non so cos'altro. Se la vostra vanità non è ancora sazia, dovrete rivolgervi a un'altra ditta che ve la rimpinzi. Siete una simpatica donna d'affari, davvero? Buttare i soldi fuori dalla porta in questo modo, ridacchiò Fred. Una semplice burla di Lucy gli andò a genio come la battuta più originale non avrebbe probabilmente fatto. Gli pareva quasi dello stesso livello delle brillanti trovate verbali del suo amato Sporting Times. «I nostri affari», rispose Lucy, con modestia, «sono gestiti secondo i più rigorosi principi. Siamo solite far capire ai gentiluomini quando hanno avuto ciò che gli spetta». Oddio, Fred sembrava essere completamente travolto da ciò che avrebbe definito una barzelletta e diede sfogo a un grido assurdo di allegria. Cosa succede? Domandò a sua sorella entrando in soggiorno. Lei e Gertrude erano appena tornate su dallo studio, dove Connie si era sfogata l'anima sulla vacuità del mondo, un aspetto che aveva l'abitudine di scoprire periodicamente. Fred, che baccano! Oh, zitta, Con, e lasciami in pace, brontolò Fred, sprofondando su una sedia. Connie ha danzato ogni notte questa settimana. Me la fanno portare troppo in giro per Giove, e ora, se permettete, ho la gola asciutta. La signorina Devonshire neanche si degnò di replicare a queste osservazioni, e Phyllis, che come tutte loro era abituata ai litigi occasionali tra fratello e sorella, si gettò nella mischia. Sei proprio la persona che voglio, Connie, esclamò. Vieni qui, forse puoi illuminarmi sulla persona che mi interessa più di chiunque altro al mondo. Phyllis, protestò Fan, che aveva capito l'allusione. Il tuo uomo abita qui di fronte, continuò Phyllis imperturbabile. Lucy e io non vediamo l'ora di sapere tutto di lui. Eccolo sul gradino della porta. Ma perché mai? È uscito solo mezz'ora fa. Quell'uomo, disse Fredda con indicibile disprezzo, quell'individuo dall'aspetto di un forestiero con cui Connie balla per metà della notte? Dall'aspetto di un forestiero, disse Phyllis, avrei pensato proprio che lo fosse, perché sarebbe potuto uscire direttamente da un ritratto veneziano, un Tintoretto, un Bordone, uno qualunque di quegli uomini vellutati. Solo per quel che riguarda il colorito, aggiunse Lucy, il cui interesse al soggetto sembrò essere relativamente modesto. Non credo che quei vecchi nobili veneziani schizzassero via in quel modo precipitoso. Mi chiedo spesso quale possa essere l'attività che continua a farlo correre dentro e fuori tutto il giorno. Fortunatamente per Constance, la luce che si scoloriva in quel pomeriggio di dicembre camuffava il fatto che stesse arrossendo violentemente, mentre replicava in modo piuttosto disinvolto. Oh! Frank Jermyn è un artista. Lavora principalmente in bianco e nero per giornali illustrati, credo. Divide uno studio con un altro tizio a York Place. È inglese? Sì, e i suoi familiari sono dei sacerdoti della Cornovaglia. Tutti loro? Come? Tutti i suoi cari? Esclamò Phyllis. Ma oggi sei proprio interessante, Connie. Pover'uomo, sembra un po' solo delle volte, sebbene abbia una quantità ben assortita di amici singolari. Ad ogni modo, continuò Connie, mantenendo ancora il suo tono rigorosamente neutrale, ha nominato lo studio fotografico e ha voluto sapere tutto su G.L. Lorimer. Gli hai spiegato, rispose Phyllis, che se tu abitassi di fronte a quattro splendide principesse decadute che hanno continuato l'attività di un fotografo, avresti fatto loro visita per essere fotografata? È davvero molto più cortese da parte sua che non lo faccia, disse Lucy con decisione. Phyllis assunse una posa. Sarebbe stato una volta soltanto. Abbiamo alloggiato in una strada insieme. Iniziò, quindi si fermò improvvisamente. Che terribile chiasso, disse Fred. Si sentiva distintamente uno strano scalpiccio proveniente dalla stanza di sotto. Sembra che Mademoiselle Stéphanie stia dando un ballo di pomeriggio, disse Lucy. Vado a vedere cosa succede, commentò Gertrude alzandosi. Difatti, afferrò avidamente l'occasione per separarsi da questo gruppo di oziosi chiacchieroni. Era stanca, scoraggiata, salita da centinaia di ansie, gravata da un crudele senso di responsabilità. Come era andato a finire tutto? Si chiedeva mentre, dimenticandosi della recita di Mademoiselle Stéphanie, indugiava sul piccolo pianerottolo buio. Quella prima ondata di lavoro, scaturita dalla spinta bonaria di amici e conoscenti, si era esaurita e i problemi stavano invece diventando davvero seri per la ditta G&L Orimer. Non potremo andare avanti per sempre con le ghinee di Fred, pensava, mentre una strana risata le cresceva in gola. Forse, comunque, ho sbagliato a rifiutare di essere intervistata dal Waterloo Place Gazette. Ma siamo fotografe, non saltimbanchi, aggiunse come a giustificarsi. In pochi minuti era riuscita a sopprimere ogni traccia esteriore dei suoi problemi e si era riunita alle persone del soggiorno. La signora Marion dice che non è nulla, esclamò col suo sorriso delizioso, e che non c'è modo di capirli, questi stranieri. Una risata accolse le sue parole, poi Connie, alzandosi e scuotendo le splendide gonne, dichiarò che era giunto il momento di andare. «Non verrai mai a trovarci», disse dando a Gertrude un forte abbraccio. «La mamma è sicuramente offesa, mentre papà, sconsolato, non è la parola esatta. Devi far loro capire quanto sia davvero difficile per ognuna di noi venire», rispose Gertrude, che provava un naturale dispiacere a entrare nel merito di certe questioni meschine, come quelle degli abiti trasandati e della relativa dispendiosità dei biglietti ferroviari, sarebbero sicuramente apparse. «Ma verremo un giorno, certamente». «Ti dirò io com'è», esclamò Fred mentre uscivano in strada e cercavano una carrozza. «Gertrude può essere la più intelligente e Phyllis la più graziosa, ma Lucy è di gran lunga la più piacevole delle ragazze Lorimer». «Io penso che Gertie vale per 10», rispose Connie irritata. Era assorta nella furtiva contemplazione di una luce che brillava debolmente su una finestra sopra la sala del banditore d'aste di fronte. Mentre le ragazze erano sedute a cena, più tardi furono sorprese dal ripetersi di quei rumori provenienti dal piano di sotto che le avevano disturbate nel pomeriggio. Aspettarono pochi minuti, stando attente, ma questa volta, invece che un debole rumore lontano, ne avvertirono uno che rapidamente aumentò di volume. Quindi, in aggiunta allo scalpiccio, le loro orecchie furono bombardate da grida stridule che sembravano essere una raffica serrata di feroci rimproveri. Evidentemente si trattava di una disputa che stava proseguendo con qualche altra alma oltre a quelle vocali o verbali impiegate, perché il pavimento e le finestre del piccolo salotto tremavano e sbattevano in modo più preoccupante. Improvvisamente, a quell'orrore generale, Fanny scoppiò in lacrime. «Ragazze!» gridò correndo selvaggiamente alla finestra. «Potete dire quello che vi pare, ma non ho intenzione di stare a guardare senza muovere un dito, mentre noi tutte veniamo assassinate!» «Aiuto, un omicidio!» strillò, appoggiando metà del corpo sul davanzale. «Per carità, Fanny, smettila!» esclamò Lucy sbigottita, cercando di tirarla indietro nella stanza, ma la sua protesta fu sovrastata da una serie di urla penetranti provenienti dalla stanza sottostante. «Vado a vedere cosa sta succedendo!» disse Gertrude, lei pure con le labbra livide, perché il tutto bastava a gelare il sangue. «Faresti meglio a rimanere dove sei?» le rispose Lucy con i suoi modi più concreti mentre accompagnava la terrorizzata Fana a una poltrona. Phyllis stava tra loro in silenzio, guardando prima l'una poi l'altra, con quello strano luminoso sguardo negli occhi che le era segnale di eccitazione, l'eccitazione misurata, impersonale, di uno spettatore dinanzi a una rappresentazione da brivido. «Certo che andrò», disse Gertrude, mentre una porta sbatteva violentemente di sotto con l'accompagnamento di una raffica di maledizioni in più lingue. «Non rimarrò in questa casa tremenda un'ora in più», ansimò Fanny dalla sua poltrona. «Gertrude, Gertrude, se lasci questa stanza morirò!» Con un tuffo al cuore, poiché non sapeva in quale errore fosse sul punto di imbattersi, Gertrude si diresse al piano di sotto, mentre le grida e i rumori di una lotta crescevano a ogni passo. Al fondo della prima rampa di scale si arrestò. «Torna indietro, Phyllis!» «Non va bene, Gertie, non torno indietro!» «Vado in farmacia e se Marion non sono lì, dobbiamo chiamare un poliziotto». Scesero velocemente giù per la rampa successiva, passando davanti a quelle orribili porte dietro le quali la battaglia infuriava e ancora giù in fondo finché non raggiunsero il piccolo ingresso stretto. Qui si fermarono improvvisamente davanti a un individuo che sbarrava la strada. Molto tempo dopo Gertrude riuscì a richiamare alla mente l'istante in cui vide per la prima volta Frank Jermyn sotto il loro tetto. Poté ricordare distintamente, sebbene tutto in quel momento pareva in preda al caos, l'improvvisa sensazione di sicurezza che la colse alla vista di quel giovane volto gentile e ardente, di quegli occhi brillanti e risoluti al suono di quelle voci virili e allegre. Non ci furono spiegazioni né accuse. «Sembra esserci un impressionante litigio in corso», disse sollevando il cappello. «Spero solo non riguardi nessuna di voi, signore». In poche parole affrettate, Gertrude gli raccontò quel che sapeva dello stato di cose. Nel frattempo il rumore si era in qualche misura placato. «Santo cielo!» esclamò Frank. «Deve esserci un omicidio proprio in questo istante!» E in meno tempo di quello impiegato a dirlo, l'aveva oltrepassata e stava battendo con tutte le sue forze alla porta chiusa. Le ragazze lo seguirono timorosamente e fecero in tempo a vedere la porta aprirsi di botto sotto i colpi ben assestati e la signora Marion stessa farsi avanti verso di loro, pallida ma calma. All'interno della stanza tutto era scuro e muto. La signora Marion e il nuovo arrivato scambiarono poche parole sbrigative e quest'ultimo si voltò verso le ragazze che stavano avvinghiate l'una all'altra qualche passo fuori. Non c'è motivo d'allarmarsi. Vi prego di non aspettare qui, vi spiegherò ogni cosa tra pochi minuti se posso. Ora, cortesemente, signorine Lorimer, tornate al piano di sopra. Non c'è nulla di cui aver paura, intervenne la signora Marion con una certa asprezza. Pochi minuti dopo, Frank Jermyn bussò alla porta del salotto delle Lorimer e non appena venne invitato a entrare, si trovò nel mirino di quattro paia di occhi femminili scintillanti e interrogativi. Vi prego di sedervi, signore, disse Fan, che era stata preparata al suo arrivo. Come potremo mai ringraziarvi? Non c'è nulla per cui dobbiate ringraziarmi. Come possono riferirvi le vostre sorelle? Disse senza mezzi termini. Sembrava proprio una personcina modesta e piacevole, mentre stava lì nel suo soprabito chiaro e con quei suoi vestiti scomparso tutto l'impeto. Sono semplicemente venuta a dirvi che non è accaduto nulla di terribile. Sembra che la povera francese del piano di sotto sia in difficoltà economica e abbia cercato di togliersi la vita. I Merrill l'hanno scoperto in tempo ed è stato fatto tutto quello che hanno potuto per distoglierla dal portare avanti il suo piano. Da qui le lacrime, aggiunse con un sorriso. Una volta che hai visto Frank Jermyn sorridere, da quel momento in poi non puoi che avere fiducia in lui. Le ragazze furono colte da orrore e pietà a sentire quel racconto. Ci siamo preso un bello spavento, disse Fan asciugandosi gli occhi con fare dignitoso. Che terribile baccano, ma l'avete sentito voi stesso? Una pausa. Il giovane si guardava attorno con aria piuttosto malinconica, come fosse dubbioso della posizione in cui si era messo in mezzo a loro. Non dobbiamo trattenervi, proseguì Fan, la cui lingua si era sciolta per l'emozione. Senza dubbio, dando un'occhiata ai suoi abiti, state andando fuori a cena. Parlava coi modi di una regina decaduta che allude alla cerimonia di incoronazione. Frank si alzò. A ogni modo, disse, guardando in basso, ho spesso desiderato. Non mi sono mai azzardato, quindi sollevò lo sguardo e fece un sorriso luminoso. Mi sono spesso chiesto se nel vostro lavoro includete le fotografie nelle botteghe degli artisti. Lucy gli assicurò di sì e il giovane chiese il permesso di far loro visita l'indomani allo studio. Quindi aggiunse: Il mio nome è Jermyn e vivo al 19 qui di fronte. Credo, disse Lucy in quella maniera franca e amichevole che metteva sempre le persone a proprio agio, che abbiamo una conoscenza in comune, la signorina Devonshire. Jermyn riconobbe che le cose stavano così. Vennero scambiate poche osservazioni sull'argomento, quindi l'uomo uscì per andare a cena, ma non prima di aver stretto la mano alle ragazze in tutta franchezza e cordialità. La signora Marion venne su nel corso della serata a esprimere il suo rammarico per lo spavento e il disturbo delle signore, accantonando con cinico buonumore le loro espressioni ansiose di pietà e compassione per l'eroina della vicenda. Non è il caso vi preoccupiate per una come lei, anche se dispiace abbastanza anche a me per Stephanie. E finora non ha pagato un centesimo d'affitto dell'ultimo trimestre. Povera donna, rispose Lucy, deve essere stata in una condizione disperata. Vedete, signorina, era indebitata da così tanto tempo, sebbene non ne sapessimo nulla, e alla fine era stata minacciata dagli ufficiali giudiziari. Quindi cosa doveva fare se non scendere al negozio e rubare alcune bottigliette della farmacia mentre eravamo a cena? Il signor Marion l'ha scoperta e gliel'ha presa una questo pomeriggio quando vi siete lamentate del baccano. Più tardi gli è mancata la seconda bottiglietta, quindi è salito da Stephanie, che l'aveva stappata e la stavano usando, facendo capire volesse togliersi la vita. Che cosa indicibilmente orribile, commentò Gertrude rabbrividendo. Avete sentito come si accaniva quando lui cercava di prendergliela? Inoltre, che forza che ha, tanta quanta quella mia, di Marion e della ragazza per tenerla ferma. Dov'è andata ora? Chiese Lucy. Oh, sapete, signorina, non dorme qui. È tornata a casa con Marion, mite come un agnellino. Ha consumato una cena frugale insieme a noi piuttosto allegramente. Cosa farà, mi chiedo? Non c'è molto da dire su quello che lei e molte altre povere creature come lei devono fare. Non ci sarebbe riposo per nessuno di noi se pensassimo a questo. Gertrude rimase sveglia varie ore quella notte. Gli eventi della giornata le avevano insolitamente scossa. La storia della povera francese, con quel suo tratto di tetro umorismo, le faceva male al cuore. Protetta come lei era stata fino ad allora dalle più grosse difficoltà della vita, stava solo adesso iniziando a rendersi conto del significato dell'esistenza. Solo una tavola, Una tavola tra loro e lo spietato e insondabile oceano sul quale erano partite con un tale inconsapevole coraggio, nei cui innumerevoli abissi roventi ogni giorno si affondava e si scompariva per non riaffiorare mai più. Mademoiselle Stéphanie comparve la mattina dopo e fece un trambusto piuttosto vivace nel mettere in ordine il suo laboratorio in vista della partenza definitiva. Gertrude la superò sulle scale mentre andava allo studio, ma finse di non accorgersi del saluto mattutino dell'altra, dato con la solita vivacità. Il volto giallastro e lezioso, con quei suoi sorrisi imperturbabili, le fece male. Phyllis, che era insieme a lei, sorrise dolcemente. Non sembra minimamente abbattuta per la piccola questione di ieri, disse. Zitta, Phyllis. Suona già il campanello dello studio. Senza dubbio, è Jeremy. E assunse inconsapevolmente l'aspetto più professionale che possedeva. Qualche giorno dopo, Mademoiselle Stéphanie scomparve per sempre. E non molto più avanti, il suo posto fu occupato da un ombrellaio apparentemente serio, che non si mostrò desideroso delle bottigliette del signor Marion.